Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli, noto infiltrato di Radio Maria, per la consueta regia, fa rima, e l'appuntamento rimane confermato, sì, per domenica prossima alla medesima ora. L'avvocato Ennio Antonino Ruggero ci ha mandato una cortese missiva con utili segnalazioni di cui vi siamo grati.